Quanti anni ha lei, professor Sartori? Ah, non me lo ricordo, ormai è passato, sono troppo vecchio tempo per ricordarmelo. Pare 85, è vero o no? No, 86. 86. Senta, senta, ma è vero che lei è fidanzato con una signorina molto giovane, molto più giovane di lei? No, fidanzato è proprio, non c'entra niente, dico. Fidanzato? Così, ho visto delle foto. Uno si fidanza a 20 anni, io sono un po' troppo vecchio per... Vabbè, fidanzato, che vuoi, fidanzato nel senso la sua compagna, non so come definirla, non è che uno non può avere una compagna. Ma lei è troppo curioso, questo... Io sono molto curioso, sono perché molto... Lo so, ma allora la voglio frustrare, non le rispondo su questo. Scusi, si è fatto intervistare dei giornali però su questo? No, no, no, una volta sola mi è scappata e me sono pentito. E da lì è diventato... Si è pentito, si è pentito di quell'intervista là, doppia intervista, doppia intervista. Doppia? Come doppia? No. Beh, rispondeva lei e rispondeva pure la sua compagna. Non possiamo... Ah sì? Professore, scusi. Bravo, lei è un buon archivio, sì, sì. L'anno scorso... di qualche cosa le telefono. Io ho una domanda per il professor Sartori. No, ma scusa, però. Ma chiedili se ancora questa storia dura, abbi pazienza. Infatti, siccome oggi a Roma è stato presentato il libro Ultra Caffonal di D'Agostino, sì, e mi risulta che ci sia anche una foto del professor Sartori in questo libro con a fianco la sua compagna, volevo sapere se il libro è ancora attuale o no, cioè se ancora la storia d'amore continua. Non l'ho visto. Le foto purtroppo mie dilagano perché con l'andare dei decenni o dei secoli c'è un archivio di fotografie, quindi mi hanno detto che c'è una foto che io però non ho visto, nella quale vengo imboccato di cibo, e questa è una cosa lecita e anzi molto carina, insomma. Infatti è una foto per farmi alla fatica di usare le posate. Certo. E perché lei non ci vuole dire se ancora questa storia continua? Perché questi sono fatti miei, caro amico. Lo so, lei ha ragione su questo, però lei lo sa che ormai la privacy è scomparsa, no? Ma io la difendo. Anche quella di Berlusconi, oppure per Berlusconi è diverso? Quella di Berlusconi non è difendibile perché lui ha la spiattella ovunque, io invece no. E lei invece la difende, invece però la allora giornalista no, però... E poi il paragone con Berlusconi non so se è accettabile, dico, per me, perché lui fa il politico, dice, lei invece fa semplicemente un professore. No, ma perché lui ne fa troppe, insomma, no, ma mica volevo paragonare edizioni di fidanzamento. No, però scusi professor Sartori, non volevo fare il paragone tra l'arem di Berlusconi e Bunga Bunga di Berlusconi. Ah, ecco, allora va bene. No, per carità, allora, quello ritira questo paragone. Io lo ritiro, però non è che qualcuno ci ha detto l'altro giorno, anzi lo stesso della vedova di cui parlavamo prima, ha detto, non è un bel esempio per i giovani da questo punto di vista. Insomma, io dico, quelli che sono il Berlusconi, Bunga Bunga, l'Arem, eccetera, eccetera. Ma sai, professore, cos'è il Bunga Bunga? Bunga Bunga è beato lui, dico, se gli piace, che gli dà soddisfazione. Appunto, lei lo sa se cos'è. Poi ci riesce, veramente. Ma lei sa cos'è, professore, il Bunga Bunga? È fisico. Lei sa cos'è Bunga Bunga, professore? Me l'hanno spiegato, sì. E cioè ce lo spiega anche a noi che non lo sappiamo ancora. Ma poi vengo denunciato per pornografia. No, le guardo bene. È un linguaggio allusivo, professore. Vada al dizionario, eccetera, eccetera. Io non l'ho mai praticato, non so che cosa sia. È un nome esotico, africano, non so. Oppure marocchino, egiziano, se ne fanno confusioni oramai in Italia. Eh sì, quello sicuro. Dice lei un termine per una pratica sessuale, però, comunque, in ogni caso. Sì, sì, questo l'ho capito. Questo l'ha capito perfettamente.